sembra l'ennesima sparata proibizionista a effetto per ingraziarsi i voti della destra e anche dei più reazionari a sinistra. Detto così sembra una buonissima idea, in realtà se si va a vedere si parla di modiche quantità, cioè di arrestare sul posto chi ha pochissima quantità di sostanze, invece lasciando intatti i grandi narcotraffici che invece sono continuamente in aumento. E noi siamo abbastanza in linea con la posizione di Antigone, per esempio, che fa rilevare che in Italia il 30% dei carcerati riguardano reati legati alle sostanze, piccolo spaccio soprattutto, mentre il grande narcotraffico fa i patti con la politica e non viene toccato. Negli altri paesi europei, in Spagna, in Francia, paesi vicini a noi, in cui i consumi di sostanze sono uguali, si parla di un quinto, del 19-15% di incarcerati, quindi quello che non va è da noi, sono le politiche. L'unico modo per togliere benzina al narcotraffico è depenalizzare soprattutto le sostanze come la cannabis, che toglierebbe una bella fetta di guadagni da narcomafia. Anche depenalizzare anche altre, perché altre quelle, cioè depenalizzare per esempio le foglie di coca, si toglierebbe un'enorme quantità di soldi ai trafficanti di cocaina. Le foglie di coca sono degli stimolanti usati da migliaia di anni e non creano dipendenze, non creano nessun problema, non ci sono. Oltretutto la soluzione appunto viene sempre indicata quella del carcere, che non è una soluzione, ma le carceri sono sovraffollate. Sovraffollate lo saranno ancora di più, soprattutto il 25% dei carcerati sono tossicodipendenti e quasi sempre lo diventano dopo che sono entrati in carcere, alla faccia del recupero sociale, cioè la gente. Soprattutto poi le manovalanze di questo piccolo spazio lo sappiamo già dove va a finire. Il decreto di sicurezza ha buttato in illegalità ancora più persone, migranti che arrivano da fuori, e quindi cosa fanno? Faranno quello, e quindi di nuovo la caccia alle streghe verso il piccolo spacciatore, che spesso purtroppo è migrante perché non ha altre soluzioni. Quindi noi siamo contrarissimi a questa sparata che sembra che voglia rievocare la Fini Giovanardi. La Fini Giovanardi è il 40% delle persone che era in carcere legato a reati di piccolo spaccio soprattutto. Quindi inviterei la politica a fare scelte che abbiano un impatto migliore sulla cittadinanza. Incarcerare così tante persone per piccolo spaccio, che è legato anche al consumo personale, non si risolve assolutamente nulla. Che si vadano a toccare i grandi narcotraffici, si smetta di provocare guerre in giro per il pianeta e magari anche il grande narcotraffico sarà meno. Poi un'altra parola vorrei dire, che mentre si fanno queste leggi, a Bologna per esempio sono usciti i dati dell'osservatorio epidemiologico, sono già 22 morti di overdose, qua si muore, i servizi a Bologna non fanno assolutamente nulla, a parte propaganda, non c'è un drop-in aperto al 2006 e qui si continua a morire di urina troppo pura, mentre in realtà si fa la caccia alle streghe di cose che, per esempio il fentanyl, che è vero che potrebbe essere un problema, ma in realtà in Italia si muore di urina troppo pura, e però non si sta facendo nulla. Vuole incarcerare i piccoli consumatori, i piccoli spacciatori, mentre in realtà i grandi problemi non vengono toccati. Ti faccio una domanda un po' più tecnica, approfittando delle tue competenze. Si parla di modica quantità, ma come si fa a distinguere un consumatore da uno spacciatore? In realtà è molto difficile, credo che appunto con i nostri avvocati che ci accompagnano da tanti anni è una cosa piuttosto opinabile in realtà, perché bisogna capire se la persona stava appunto la deteneva per uso personale oppure dimostrato che c'era lo spaccio. Chiaramente se c'è la cessione i problemi legali aumentano, il problema è la piccola quantità. Credo che ci si basi su prove o circostanze nelle quali la persona viene fermata, in cui vengono viste le persone. Chiaramente, se si trovano in quantità molto grandi è chiaro che il dubbio non c'è, ma se si parla di una dose o due dopo, in realtà appunto di solito ci si basa sulla divisione in dosi, in bustine, se c'è un bilancino, se ci sono telefonate oppure se c'è la prova che c'è uno spaccio in corso, ovviamente. Però in realtà se c'è un consumatore che ha, per esempio, una piccola quantità di cannabis per la settimana, non divisa in dosi, lì si rischia, con questo provvedimento, rischia di cascare dentro un piccolo spaccio, anche se in realtà non c'è spaccio, perché uno ha il suo uso personale, che in Italia non è un reato penale, ma può essere amministrativo se è legato alla guida, ad altri problemi. Quindi in realtà diventa una nuova, un modo abbastanza velato, non troppo velato, per dare la caccia ai piccoli consumatori, più che toccare il grande spazio che non verrà minimamente intaccato da questo provvedimento.